Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Bentornati a questa nuova puntata di Radio Next, di nuovo insieme, e questa volta parliamo di vendita, di come ovviamente uno degli aspetti più importanti dei modelli di business ha avuto un problema enorme durante il Covid, durante il lockdown. Lo facciamo insieme ad Aldo Pasca Raimondi, che è uno dei fondatori di Energy To You, al quale vogliamo chiedere, diamo il benvenuto ovviamente, vogliamo chiedere innanzitutto che cosa fa Energy To You. Ci vuoi raccontare qualcosa, Aldo? Buongiorno Pepe. Energy To You è una società che nasce dalla somma di esperienze diverse dei diversi founder che la compongono. Mm-hmm. Le esperienze nascono in particolare nell'ambito della consulenza, nel mondo della system integration e technology e del management dell'IT, in particolare in ambito Energy Telco Insurance. Mm-hmm. Le diverse esperienze ci hanno portato a creare una piattaforma multicanale funzionale a semplificare, rendere più sicura e economica la fase di vendita per in particolare i canali indiretti, gli agenti, le convenzioni, le fiere o anche il rapporto in self-care col cliente. Allora, entriamoci un attimino in più in profondità. Mi spieghi esattamente come funziona questa piattaforma? Allora, la piattaforma è un puzzle di tecnologie che tentano di rendere più veloce ma allo stesso tempo sicuro il processo. Le tecnologie sono abbastanza classiche, c'è cioè un processo di CRM classico. Quindi la gestione del prospect o del cliente. Del prospect multicanale, per cui agente, web, app e quant'altro, su cui sono state inserite in modo modulare una serie di funzionalità che tendono a rendere più semplice e accattivante l'approccio della vendita da parte del cliente e più veloce anche da parte dell'agente. Quindi c'è un processo di OCR che inizialmente riconosce i documenti, la bolletta telefonica o energetica, il documento d'identità più che la tessera sanitaria per autocompletare il contratto. Dietro questo processo, che per il cliente diventa, non dico gaming, ma quantomeno più veloce, perché con la foto e i documenti non deve perdere tempo a cercare anche dati astruti, vengono poi inserite una serie di pre-check nascoste al cliente ma che rendono sicura la fase di contrattualizzazione. Nel mondo dell'energy c'è un pre-check verso i processi dell'authority che certificano la correttezza del contratto. Nel mondo insurance, telco, abbiamo dei pre-check per la parte di credit policy, per esempio, che permettono di definire fino a quando il cliente è davanti all'agente, davanti al web, davanti alla persona magari meno skillata che si occupa di vendite all'interno di una fiera, tutte le informazioni necessarie per chiudere il contratto, che a quel punto con una firma digitale, che a seconda del canale può essere semplice con un OTP, grafometrica, con Speed, che è un canale su cui speriamo di poter investire di più grazie in qualche modo all'automazione che sta portando il coronavirus, visto che Speed diventa un canale necessario per il contatto con l'INPS, e questo quindi permetta di chiudere immediatamente un contratto fatto e finito ma certificato sulla base di dati certificati e con dei tempi di esecuzione e rischio di errore molto minori anche da parte del cliente, proprio perché i dati vengono riconosciuti per la maggior parte in automatico e in caso non lo siano vengono validati e il cliente viene guidato con un wizard, il cliente o anche l'agente, perché il processo è stato fatto proprio per rendere molto smart e semplice guidare chiunque si occupi della fase di vendita. Ormai le società di vendita iniziano a utilizzare molti canali, il mondo del cross-selling è sempre più ampio e quindi ci siamo trovati con società di vendita che hanno usato banche di credito cooperativo, convenzioni, fiere, più che media store, per esempio. In questo caso abbiamo a che fare con degli attori che ovviamente non conoscono i processi di vendita della commodity di cui stiamo parlando. Magari ci troviamo appunto un dipendente bancario che deve vendere un contratto di energia. Certo. La scelta è stata quindi creare un processo che, così come è semplice per il cliente, è semplice anche per chi si occupa della vendita quando non ha le skill necessarie. Chiaramente in un mondo B2B il processo permette a un agente che ha le competenze maggiori e ha bisogno, diciamo, di fare una contrattazione di diverso tipo, invece le libertà per poter non rimanere poi invece ingessato. Quindi abbiamo scelto, a seconda del tipo di canale di vendita, del tipo di cliente, di poter adattare il processo sia dal punto di vista di semplicità che anche dal punto di vista di sicurezza. Per un cliente semplice da web magari c'è una firma digitale con OTP, per un contratto business prevediamo una firma qualificata, per esempio, ed è il sistema che guida alla scelta senza dover creare, diciamo, problemi di scelta a magari la gente che non sempre sa qual è la normativa più adatta per quel tipo di contratto di cliente. Ma a me sembra, come dire, una soluzione assolutamente di buon senso. Tu hai parlato di tecnologie già esistenti che sono state ottimizzate all'interno di questa piattaforma e rese, come dire, fruibili in maniera semplice, e allora mi domando come mai non siano già largamente utilizzate. Quali sono gli ostacoli che voi incontrate quando interloquite con le aziende o con le reti di agenzia o comunque con interlocutori che appunto hanno bisogno di rendere più efficiente e più efficace la vendita? Ma gli ostacoli, secondo me, sono di due tipi principali. Da un lato, storicamente i canali di vendita in Italia ritengono di doversi sempre solo confrontare con una popolazione magari anziana e che loro ritengono essere non digitalizzata, sì. Cosa peraltro non così vera, perché abbiamo visto che in epoca di coronavirus la vendita anche solo dei supermercati online è esplosa e le persone hanno imparato velocemente ad adattarsi e quindi c'è una certa reazione a digitalizzare realmente i processi, e sto usando il termine digitalizzare perché secondo me molto spesso l'errore è che invece le società dematerializzano i processi. Cosa fanno? Prendono il processo che prima avevano su carta e lo traspongono pari pari su piattaforme che invece hanno potenzialità totalmente diverse e che quindi richiederebbero una revisione del processo stesso. Questa è una, diciamo, delle nostre expertise che tentiamo di portare per riuscire a dare l'adozione. Questo è ancora più vero forse proprio per i canali di agenzia, dove ancora oggi abbiamo agenti, perdonatemi il termine, vecchio stampo, abituati a girare con la carta, molto bravi nel rapporto magari col cliente, e ai quali magari è difficile far digerire dover girare con un'app a fare un change management per imparare a conoscere nuovi strumenti, avere anche la paura in qualche modo di essere magari maggiormente monitorati. Detto questo, secondo noi è una falsa paura che stiamo piano piano riuscendo a scardinare, perché via via che si riesce a portare gli utenti su un sistema nuovo, i vantaggi vengono velocemente percepiti. Banalmente tutta la possibilità di avere un contatto indiretto e a distanza col cliente sulla stessa interfaccia, fosse anche solo l'integrazione con WhatsApp, che ormai è nativa su qualunque sistema di questo tipo, permette anche in un periodo di coronavirus di mantenere un contatto diretto col cliente, ma strutturato sul sistema di vendita. Perché quindi ti permette di tenere traccia del contenuto, di quello che ci sei detto? Traccia, non perdo, ho la mia agenda, ho tutte le comunicazioni. In alcuni casi alle comunicazioni, che siano WhatsApp, Facebook, social, quello che vogliamo, possiamo attivare dei bot che riducono anche la fatica degli agenti. Certo. Vale per gli agenti, vale anche per un customer care, perché in molti casi è semplicemente una parte di richiesta di informazioni. Quindi diciamo che noi in questa nuova fase che dobbiamo affrontare diciamo non vediamo la scomparsa dei canali indiretti. Chi prima si rivolgeva a un canale indiretto, anche perché questo canale ha magari delle competenze, ha un rapporto diretto col cliente che non può avere il canale web o magari la BD Industry, manterranno questo rapporto, ma sarà necessario da parte dei canali indiretti dotarsi di sistemi che a 360 gradi permettano di mantenere e digitalizzare il contatto, tenendone traccia, gestendolo senza perdere informazioni, con in più una introduzione anche maggiore della parte sales da parte dei clienti. Non è detto che per qualunque informazione debba chiamare il mio agente lo chiamerò solo per le informazioni più importanti. Banalmente, se sono poi un utente molto skillato lo farò da smartphone, sono meno skillato manderò il WhatsApp. Tutti i canali devono riuscire ad essere gestiti nello stesso modo, cosa che, tra parentesi, oggi è facile. È semplicemente un'attività di impacchettamento di capability tecnologiche che sono alla portata di tutti. Mm-hmm. La difficoltà maggiore, come dicevi tu all'inizio, è farlo digerire. Senti, farlo quanto digerire ci mette un'azienda a portarselo dentro, un progetto del genere? Allora, un progetto di questo tipo, tenendo conto che noi proponiamo un servizio, quindi ha, diciamo, delle capability standard su cui poi permettiamo di fare alcuni adeguamenti, desideriamo che non si riparta ogni volta dalla pagina bianca, mm-hmm. riteniamo che sia molto più efficiente partire da un prodotto fatto e finito su cui poter fare delle customizzazioni, piccoli adattamenti che permettano l'adozione a ogni singola società, mm-hmm. mediamente ci mettiamo 3 mesi per andare in produzione con il canale principale. Normalmente proponiamo dopo 2 mesi una fase pilota con gli stakeholder principali che poi saranno quelli che guidano magari le persone più refrattarie, perché se gli stakeholder principali hanno partecipato alla parte di fine tuning, adattando la piattaforma a quelle piccole necessità differenzianti che ogni società ha dall'altra, mm-hmm. ma che sono piccole secondo noi, mentre oggi in Italia molto spesso ognuno pensa di essere totalmente diverso dall'altro, questo permette di far avere poi una piattaforma in mano anche alle persone più refrattarie già adeguata alle proprie necessità, mm-hmm. e soprattutto già utilizzata dalle persone che nella società vengono viste come traino, mm-hmm. quindi è anche un po' complicato per altri a quel punto rigettarla. È chiaro che non è un processo facile, ma almeno senza volerci lodare, avendo creato una piattaforma effettivamente molto semplice, stiamo riuscendo ad avere, diciamo, meno reazioni negative di quante in altre esperienze analoghe abbiamo avuto. Senti Aldo, ti faccio un'ultima domanda prima di salutarti, perché vorrei il tuo punto di vista. Con l'esplosione di questo e-commerce, secondo te le reti di vendita diventeranno obsolete per come le conosciamo oggi? Cioè dovranno cambiare, come dire, veramente mestiere, o cambierà invece il modo di fare la vendita e le reti avranno una loro ragione d'essere? Allora, la verità sta nel mezzo. Sicuramente l'e-commerce per certi versi cambierà una parte di questi processi. Secondo me più nella parte B2C. Mm. Quello che invece non cambierà è la necessità di avere delle reti e dei contatti diretti, mm-hmm. portando a far assomigliare di più le piattaforme di vendita B2B a quelle B2C. Le capability di contatto diretto, di WhatsApp, di lavorare in self, dovranno averle anche i clienti B2B. L'altro aspetto che secondo noi in parte cambierà e che non sarà quindi una sparizione di questo canale, ma anzi potrebbe essere un rilancio, è la necessità di introdurre sempre di più il cross-selling da parte di queste mm-hmm. reti. Mm-hmm. Perché in un momento in cui il contatto umano per un periodo purtroppo si va a perdere, sì. e non conosciamo più neanche i volti, è più facile acquistare qualcosa da un agente con cui ho già un rapporto fiduciario su magari una commodity, acquistando qualcosa su cui magari lui non è esperto, mm-hmm. ma io ho fiducia di lui come il concetto di trust. E quindi il cross-selling sicuramente sarà una delle chiavi, insieme all'aumento dei canali di contatto, sì. e a piattaforme che 360 gradi permetteranno di gestire tutto il processo di vendita da parte degli agenti, per riuscire a rilanciarsi. Molto chiaro. Il mondo cambia. E allora ringraziamo Aldo Pasca Raimondi, co-founder di Energy2You, che ci ha raccontato questo, come dire, questo scenario molto interessante. Grazie mille Aldo per essere stato con noi. Grazie a voi. E ringraziamo come sempre i nostri ascoltatori per essere stati con noi durante questa puntata di Radio Next. Come sempre l'appuntamento è per lunedì per il podcast esteso con Aldo Pasca Raimondi, oppure una nuova puntata di Radio Next ogni domenica alle 13.45. Mi raccomando, il presente è passato, il futuro è già oggi. Vi aspettiamo. Un saluto da Pepe Moda.